Ed eccoci ritornati a questa nuova puntata di Radio Contadolo a 116 precisamente, mentre un aiuto mi sta raggiungendo, un supporto tecnico e logistico per quanto riguarda oggi. Vieni, non essere timido. Ora ti accendo il microfono, mulo. E come dicevo, benvenuti. La scorsa settimana, come avete ben potuto non sentire, non siamo andati in onda per problemi umani e tecnici. Ma siamo ritornati con voi. Oggi abbiamo tante belle notizie, abbiamo tante belle cose da raccontarvi. C'è appena stato questo weekend a Napoli, al CAP, al collettivo autogestito popolare di Soccavo si dice, vero? Il genuino clandestino nazionale che è andato un attimo a sbirciare le vite delle reti campane. Giusto mulo? È giusto assolutamente sì. Io sono riuscito a far tardi nell'unica puntata in cui avevo accettato l'invito del Palmiro, quindi grazie Palmiro, no, grazie mille Palmiro. Ma figurati. Sono riuscito a far tardi. No, ma non è una questione di tardi, ti avevo invitato io, ho detto vabbè, rimaniamo abbastanza fluidi, intanto avevo ancora un po' di parole per intortare i nostri cari radioascoltatori. Ma rilassiamoci Palmiro, perché questo è uno spettacolo, questa Radio Contadolo che prosegue nonostante tutto, nonostante le avversità, i chilometri, le difficoltà tecniche, ma non solo, tu le definite umane, è un periodo divertente, va? Sì, divertente. No, grazie mille dell'invito, purtroppo. Si dice Soccavo, sì. Soccavo, sì. Mi ha sempre ricordato un po' il romagnolo Soccavo, come mi viene pronunciato in romagnolo. Soccavo. Soccavo. Qualcuno mi spiegava lì al capo appunto che Soccavo dovrebbe significare, non mi ricordo bene se era dentro la cava o comunque sotto la cava, ok? Perché appunto nelle zone limitrofe a Soccavo ci sono abbastanza cave o comunque forse... Sì, mi ero anche segnato il significato. A questo punto devo tirare fuori il pad. Sì, il pad analogico, tra l'altro. Il pad analogico, guarda, si va un attimino... le cave di Piperino. Ah, ok, quindi te sei comunque... No, Piperno, ho letto male, madonna che figura di merda. No, di Piperno, poi con Wikipedia si fa vedere un attimino. Sull'oracolo, ok, comunque sei andato a indagare tra la popolazione autoctona il significato del nome del quartiere. Sì. E che dirvi, cari amici e amiche, è stato un incontro molto bello, proficuo e soprattutto costruttivo, in cui abbiamo avuto l'opportunità di conoscere i nostri compagni campani e abbiamo avuto la possibilità di intessere con loro relazioni e contatti, ed è stato sempre a livello umano un bel evento anche di conoscenza, dove abbiamo anche ridiscusso, abbiamo parlato per quanto riguarda Palmiro, il suo primo genuino clandestino nazionale, affrontato anche le tematiche di crisi all'interno dello stesso movimento in questo periodo di difficoltà. Integra, se sbaglio, sì, come mulo si sta divertendo perché sto avendo dei problemi con l'installazione del microfono che non vuole reggersi in piedi. Ma questo è il bello della diretta, no? Sì, quindi, infatti spegnerò un attimo il mio microfono. Io dovrò quindi di conseguenza tirare la balla per almeno 45 secondi e per completare... Ed eccomi qua. Ah, sei stato velocissimo. Sì, no. Oggi userò l'opzione manuale, perché questi automatismi ci hanno veramente viziato. Vabbè, comunque per concludere il discorso di un Palmiro al suo primo esordio, diciamo, interregionale, cioè, sicuramente è stata come al solito, o meglio, come era solito essere, per essere molto più precisi, un piacevolissimo incontro, piacevole e costruttivo. Per quanto riguarda la rete nazionale o quantomeno generale di Genuino Clandestino, e sostanzialmente, vista la partecipazione, visto il clima, visto anche in senso meteorologico, che è uscito un bel sole a un certo punto. Sì, alla fine siamo stati veramente, insomma, bene. Partecipazione, buon clima, belle persone, uguale, è andata bene, siamo un sacco soddisfatte e veramente ci terrei collettivamente, anche personalmente, a ringraziare tanto la rete, come hai accennato te, Campana, che ha costruito il tutto con mille difficoltà, mille fatiche, forse davvero anche l'ansia della prima o di una nuova prima, perché comunque Genuino Clandestino passò a Napoli, per chi si ricorda bene, adesso inizia a essere una storia di 10 anni. Quindi... sono storie vecchie, che esatto. Come ho avuto modo di conoscere comunque questo Genuino Clandestino, ovviamente essendo un movimento che ha tanti anni, ci sono anche... diciamo, storie dietro, storie belle e storie anche di difficoltà. Però, per chiudere questa prima introduzione, davvero ci terrei a ringraziare tanto loro che l'hanno costruita quanto il posto, il CAP 80-126, giusto? Sì, se non sbaglio, ho detto Sì, sì, sì, sì. 80-126, ma anche 80 e 120. Vabbè, insomma, anche loro che nonostante davvero un po' l'improvvisazione di tutto quanto, nonostante le difficoltà del periodo, ovviamente mi riferisco al Covid e a come ci si relaziona con questa situazione, al di là delle, chiamiamole, le nuove idee, se non del tutto ideologie, a questo punto, grazie mille perché hanno costruito, come si chiama, la piattaforma, Sì, ci hanno proprio ospitati in sulla questo quale al poi CAP. finalmente se un discorso può ripartire è anche merito loro. Sì, fondamentalmente sì. Poi ci terrei a ringraziare anche i ragazzi napoletani di Radio Plaza che ci hanno tenuto e sono riusciti a mandare in diretta, se domenica eravate in ascolto dalle 10 del mezzo del mattino fino a mezzogiorno e mezzo, hanno fatto una diretta nel mercato che abbiamo fatto nella seconda giornata dell'incontro. Potete trovarli su collettivoutopia.noblogs.org, potete trovare nel loro podcast la diretta di domenica. Come mi hanno insegnato i napoletani, quindi ti direi, Mulo, camma fa. Ma vai, Io metterei un pezzettino, uno pizzettine. pezzettino, e poi dopo continuerei a esplicare la situazione, cioè come è stato svolto l'incontro a livello relazionale e anche auto-organizzativo. E questo è Andrea Tartaglia, è un bravissimo artista di Napoli che è passato anche all'incontro di domenica al mercato, e questo suo brano si chiama O Leon, il leone. Olion. Annusa le tracce, segue l'istinto, lo sta guidando, non può che seguirlo, non può non farlo, marca il suo regno, ci entra chi è degno, se non lui attacca protegge il suo branco, deve pur farlo, uccide con rispetto, ma solo per mangiare, e quando è sazio si può fermare, deve assimilare, lascia i suoi resti a chi ha fame, rettili, vermi o le rane. A chi senza il suo operato, affamato, non potrebbe mangiare. Se non è in gabbia addestrato dalla libertà, sviluppa il suo potenziale, che lo rende reale nel mondo animale, nel mondo animale. Immagino un leone si tenesse l'iPhone, che scende tutta giorno e che sciarpetta la non. Si chiama Salvatore, sta che chiama Taton, gli assembra sempre marron, fa tipo inglese, come on. Immagino un leone che fa troppi capricci, non dice solamente fa parare due spicci. Se non va a fare la spesa questa sera fa pan, sa bofferode, parma, non digerisce salsicce. È la cruda natura, seleziona e giudica. Sfortunato se passi per la sua strada, allora sbagliata. È una giungla che infuria, densa d'avventura. Solo chi affronta la legge riesce a ambientarsi e farne una casa. E il leone ci è nato, spaventato solo si è attaccato. Da lontano si sente uno sparo, non sa cos'è, ma sente che il male è il momento buono per scappare. Ora va dal suo branco a giocare e di notte desservivi tutti quanti a festeggiare. Un motivo gli senti cantare. La catena alimentare, la catena alimentare, la catena alimentare, la catena alimentare, la catena alimentare, la catena alimentare, la catena alimentare, la catena. Immagino lì un camo se depilato, tutta preparata, cacca mi era stirata, è sciuta la fatica ma non l'hanno pavata, mossa sempre scucciata, è diventata pelata. Immagino leone che c'ha troppa paura, davanti alla TV si vede donna Ventura, guarda la sua razza nella selva più scura, sono troppo selvaggi, bisogna dargli cultura. Immagino leone si tenesse l'iPhone, che scende tutte le ore, che c'è Petranon. Si chiama Salvatore, sa che chiama Taton, gli assembra sempre Maron, un po' tipo inglese, come on. immagina un leone che fa troppi capricci, cucisce solamente per parare due spicci, non va a fare la spesa questa sera, fa fan, sa boffrode, parfano, digerisce sta sicce, ascolta tutta gente per stare in dorio, e io chiamo, e io chiamo, se piglia sai paura, non sa troppi persone, ma che fatto, arrabbi, e mostrate le presse e diventate embriaco, sta fatto, sta embriaco, passa dai una danza televisione, arrabbuso, sta sfiatato. Oh, a catena alimentare. Ecco, va buono, va buono. Oh, ce l'ho fatta, amici e amiche, a rimettere a posto questa postazione fissa del microfono. Eccolo qua il baritono, Palmiro. Che sì, che sto, il mio baritono fa clippare il mixer praticamente, quindi mi toccherà. Ma come cazzo parla? Questo è il linguaggio tecnico. Va buono, dai, a parte il cazzeggio. No, Palmida, io ti sento molto entusiasta e sì, soprattutto spero che attraverso le vibranti onde di Wombat e poi tutto lo sharing che ne può derivare, ecco, questa tua grinta sia trasmissibile in qualche modo, che possa arrivare a oltre le... E quindi cercherò di stare nel mood, ti sostengo, fammo un ping pong e si parlano. Solo che adesso ti trovo, inizio io a intervistare te. Wow, dai, intervistami. Perché questo sì, ragazzo sì. Che mo si cela sotto pseudonimi, non si fa vedere, però in realtà sta intraprendendo una brillante carriera politica. Vabbè, individualismi a parte, comunque lascia sì, stare, nel senso il mio entusiasmo che... ovviamente è frutto di, cioè, dell'entusiasmo che si è creato all'incontro. Quello che volevo dire, se mi lasci concludere Ugoncetta, è che... Che mi imbarazzi quando sei parli. Sei sceso prima di tutti, sei tornato per ultimo, perché proprio con Luca Ampani te ti sei stretto una relazione, capito? Sì. Radio Plus, i Cap, 2-3 ti hanno ospitato qua e là per la città, e quindi è stato costruttivo e piacevole, non solo, ma... Quello che vai riportando a casa è appunto un po' di uno spirito. Sì. Partiamo da questo. Ho legato molto, cioè, come tutti noi che siamo scesi dai vari nodi del genuino clandestino, abbiamo legato molto comunque con intanto l'accoglienza calorosa dei nostri amici campani, soprattutto al CAP. Ci tengo a salutare Ciro, ci tengo a salutare Maria Pia, Angelo, Fabio, Vincenzo e tutti quegli amici che abbiamo conosciuto, Sofia, Rosaria, Angelo, di nuovo un altro Angelo, Umberto, tutte persone che hanno comunque partecipato con entusiasmo a quelle che sono state le assemblee, prima gruppi sulla tematica, come tema il genuino clandestino nazionale, a cosa può servire, come possiamo continuare ad andare avanti e come riuscire a sollevare, a far spiccare e ad unire soprattutto quelle reti che già esistono ma ancora diciamo hanno un legame flebile, comunque per quanto riguarda anche quella che può essere la dislocazione geografica ovviamente, ma anche e soprattutto la difficoltosa situazione per quanto riguarda le leggi restrittive, il Covid e quant'altro. Sì, è stato veramente un bel momento in cui legare e affrontare insieme queste tematiche. E riporto un po' più anche l'aspetto tecnico, no? Quando abbiamo iniziato l'assemblea del sabato mattina, ci siamo divisi in gruppi e ogni gruppo ha proposto e ha anche gettato lì dei punti da affrontare per come riuscire a rafforzare i nostri contatti e i nostri legami in quanto movimento politico nazionale comunque. Sì. Vai, fammi altre domande perché sennò io mi impappino un po' a parlare, allora, mi emoziono. Allora, tu mi hai fatto l'appello dei compagni e delle compagne da ringraziare, salutare, mandare ad abbracciare di Napoli, però se ti chiedessi parimenti un appello delle zone, delle aree, delle città rappresentate dai nodi locali, ecco, da nord a sud, da sud a nord. Allora, dimmi quali città erano presenti a questo incontro. Cioè, allora, in quali città? Inizio dal più nord. Vai. Eravamo presenti da Parma, eravamo presenti da Bologna, da Firenze, eravamo presenti dall'Umbria, cioè Pistoia, non dimentichiamo, scusatemi, vai tra. Toscana, Pistoia e Firenze, dall'Umbria, da Roma e dalla Campania, sia dal Cilento, dall'Irpinia, da Soccavo, il quartiere napoletano che ci ha ospitato, e dal Beneventano, ovvero San Salvatore Telesino, sì, in provincia di Benevento. Davvero? Vicino a Telese. e queste due ne mancano. Sicilia, sì, e Taranto. Bravo e basta. Bravo e poi basta. Un'altra zonetta in cui... il pulsantino per le stelline, per gli applausi fuori quelli tipo No, come dice una mia amica beneventana, un applauso spontaneo. Bravissimo, Palmiro. Questo è un 8 e mezzo. 8 e mezzo. 8 e mezzo al primo test. E anche un'altra zona a nord della campagna che non, di cui non ricordo molto bene il nome, ma dal quale c'era un Friuli. No, non il... no. Io provo sempre a riabbassare il livello. Ci credo. No, è verissimo. Quindi queste delegazioni, questi gruppi di persone che hanno acchiappato la macchina, chi quasi individualmente, chi è riuscito a fare una macchina per ogni regione, davvero si parla di una quarantina, una cinquantina di compagni e compagne che condividono le istanze di Genuino Clandestino. 50 comunque situazioni sparse più o meno dal centro Italia, quindi dal bolognese, dal parmigiano, sì, però poi a scendere, e molte altre stanno sopra, non arrivate perché per motivi, perché non lo sapevano, perché il Genuino Clandestino stesso non è più così radicato in tutte le città. Mi viene in mente Torino, Milano, il nord-est si muove, però appunto ancora non riesce a contribuire, magari davvero i chilometri iniziano a essere troppi. Sì. E quindi... E quindi c'è una bella e fitta rete che si è presa la cazzottata del Covid in un momento veramente delicato, e quindi negli ultimi due anni c'era l'esigenza in qualche modo di ripartire senza darsi aspettative alte, perché non ha senso averne, però parimenti, purché accada qualcosa, e ripartire con semplicità è stata sostanzialmente la traccia di questi due giorni, di questi due o tre giorni di condivisione. Però parimenti, non del tutto inaspettatamente per alcuni, inaspettatamente per altri, si è gettate le basi per provare a ripartire con, ripeto, con altrettanta tranquillità, con altrettanta buona volontà. E soprattutto poi è uscita una notizia, cioè partendo dalla fine. Cioè, tu già approcciavi il tavolo, come sei, adesso ne parliamo, però partendo dalla fine, la proposta qual è stata? È stata di rifarlo? Sì, di rifarlo. Dove e quando? Seconda domanda che ti faccio. Dove e quando? E ancora da definire con precisione, ma la proposta e le date sono ad aprile prossimo 2022, l'8, il 9, il 10, perché il 17 è Pasqua, ci Bravi. Hanno fatto notare. E sempre comunque in campagna, non si sa se sarà di nuovo il luogo che il CAP che ci ha ospitato questo fine settimana, in questi due giorni, però stiamo valutando insomma le varie zone, e per l'appunto sono stati indetti gruppi di supporto. Benissimo. E quant'altro. Ma cosa significa questo? Che c'è tanta voglia di ripartire, cioè che c'è voglia non di ripartire, di continuare. Esattamente, mi spiego meglio, anzi mi permetto di spiegare meglio una lettura che può essere condivisa. Più esaustiva. No, non per forza, non sono nessuno, manco io, ci mancherebbe. Il discorso qual è? È che per ora, se uno guardasse la storia di questi incontri GC privata dell'ultimo biennio Covid, era ogni volta si zompettava come la pallina ping pong quella. Nel senso che ogni semestre cambia. Invece sto giro, questa nuova cosa che è successa, che è capitata, perché poi lì per lì, quando sei in assemblea puoi essere pure 50, però nessuno alza la manina, cioè, alla domanda chi se la colla fra di 6 fare mesi. Il prossimo GC. Allora ha senso, ha molto senso continuare un percorso avviato, un percorso che senz'altro è responsabilità in primis di chi vive i luoghi, i territori, le regioni e le istanze presenti. Però se anziché dare un semino, piantare un semino come GC e poi andare via, certo cercando di stare appresso a sta pianta, anziché piantare un semino noi ci si ritorna, e sicuramente loro hanno 6 mesi davanti, non solo per strutturare l'incontro in sé, anche grazie a reti di supporto, ma hanno la continuità di 6 mesi di progetto, sapendo che alle spalle ci può essere una comunità un po' più larga a sostegno, che risponde per esempio a richieste di mutualismo, per esempio anche solo sai che c'è, ci puoi stare in contatto, che è una cosa bellissima. Se è difficile ormai immaginarselo oggi come oggi, però se uno vivesse veramente isolato, nel senso proprio della casa è isolata, piglia male il telefono, internet ce n'ho sì, poco, sì, sì, sì. Devo fare 25 km per fare la spesa, sono condizioni di vita che veramente vanno raccontate perché siano anche solo percepite da chi sta fuori da queste stesse. Quindi, per chiudere, la continuità di due incontri di fila in un posto potrebbe essere una strategia nuova a livello proprio di tutti insieme, perché così tu per un po' di mesi stai dietro un progetto, non è che pianti il semino e te ne vai. E poi devi stare, sì, come magari è già successo altre volte, di dover ricapezzarsi da capo a trovare un altro posto. Esattamente, quindi che sia di nuovo il cap 80, 120, 126, scusate queste imprecisioni, però che sia di nuovo il cap, piuttosto che sia a 80 km un'altra situazione, a noi che si arriva come ospiti e come tali siamo già gioiosi di essere ospiti, ci interessa dare una mano nel concreto, anche se si abita a 5 ore di macchina, noi, perché erano 7 da Parma e 11 da Trieste magari. E così, sì, è stato, sì, siamo riusciti alla fine comunque dell'assemblea a ridarci appuntamento in maniera concreta comunque. Prima di Pasqua. Prima di Pasqua, sì, soprattutto, che non è poco. E ritornando all'inizio, quindi, visto che abbiamo incominciato dalla fine. Beh, noi si salta questo qua. Sì, facciamo facciamo un po' media stress, ecco. Sì, sì, sì, ma questo qua è le nuove strategie di comunicazione moderne, perché ho fatto una scuola di 12 anni di Vai. Scienze della comunicazione. Scienze della comunicazione. Va bene. Che dici, Mulo? Riportiamo anche un po' quelli che sono stati gli aspetti più organizzativi e tecnici di come si sono svolte le assemblee, le tematiche che si sono affrontate in merito. Mandiamo un pezzo prima, no? Sì, mandiamo un pezzettino, se no stanchiamo di parole i nostri ascoltatori. Va buono. Grande, bammi. Va buono, va. Questa è Pareva Ye dei New Guinea. antichi. In New Guinea. Donna Palmiro, mi fai sognare in console oggi. Cioè, ci metti quel tocchetto lì un po' sbarazzino, un po' napoletano, che mi fa tornare a Sfogliatelle. Ma infatti mi hanno dato, Napoli mi ha dato l'ispirazione, volevo musicalmente dedicarla a loro per le belle esperienze che ci hanno fatto vivere e alle belle emozioni che ci hanno fatto sentire. E quindi, tornando a noi, tornando alla Due Giorni, l'obiettivo che abbiamo anche un po' ridefinito in questi due giorni di incontro, un tema molto importante per noi è stato anche come ridefinirci tra di noi, come migliorare la comunicazione sia tra di noi per consolidare il legame fra le reti, ma soprattutto cosa più importante, abbiamo molto parlato di come aprirci, come comunicare bene con tutte quelle realtà che non ci conoscono, che non appartengono al nostro movimento, quindi non ridefinendoci come movimento politico, ma ridefinendoci come proposta come cioè come un'alternativa al capitalismo, come alternativa al disagio che si può vivere in città, e anche alternativa nella costruzione di una consapevolezza dell'alimentazione, una consapevolezza di ciò che riguarda anche l'aspetto economico, quindi andare a fare spesa e sapere anche cosa compri, quanto ti fa bene, come è fatto quel cibo, come viene trattato. Quindi qua anche rientra molto anche l'argomento del, facendo una piccola parentesi, di quello che è il rapporto tra quello che noi chiamiamo il coproduttore con il produttore stesso. E quindi comunque come cercare di coinvolgere, essere sempre più inclusivi verso tutti quegli altri che non ci conoscono o credono il nostro mondo essere un mondo selettivo, che può essere in parte molto vero per quanto riguarda la dedizione che ognuno di noi o ognuno che vive il mondo contadino, agricolo e rurale purtroppo per fortuna ha questa dedizione, perché comunque è un mondo, insomma, difficile in generale, non solo quello contadino, ma perché comunque serve impegno per vivere, cioè bisogna vivere i posti in campagna. Davvero sono 100 tematiche in un discorso di 2 minuti. Quello che è successo è stato, secondo me, un ricominciare dopo il disastro Covid, che tra l'altro ovviamente si sta ancora sviluppando e provoca sicuramente un coinvolgimento da parte di tutti, tutte, dalla città alle campagne, eccetera. Però ricominciare a capire non solo chi siamo e che stiamo a fare in un mondo di ristrutturazione capitalistica tutta attorno a noi, digitalizzazione forzata, nuovi concetti di cura e medicina piuttosto che prevenzione, cioè, oddio, diventa veramente una selva intricata e abbastanza oscura, perché poi è chiaro che non è che stiamo limitandoci a descrivere, non lo so, un incontro a livello di cronaca. Noi stiamo cercando di ridisegnare dei confini, dei contorni di un approccio alla vita, capito? Ovvero dei pensieri che al di là di tutto vanno verso un certo livello di complessità che uno può scegliere in qualunque momento della propria vita di acchiappare, analizzare, leggere, viverseli oppure ignorarli. Quindi innanzitutto è un incontro di gente che ha come presupposto uno, l'essere comunque in un momento di complessità altissimo, perché non ci sono, è evidente, tantissimi culi parati, detto proprio terra terra, e così come non ci sono in giro per le città, nei quartieri, specie quelli popolari, o meglio si aprono le forbici di differenza tra il ricco e il povero, e quindi uno, siamo immersi in un contesto sempre più di forbice allargata. Due, la scelta di vita è quella legata all'autoproduzione, alla campagna e a rallentare un ritmo. Questo significa, o dovrebbe implicare, che il denaro nelle nostre vite inizia a non essere più un tema così centrale oppure così inseguito, letteralmente. Quindi, secondo presupposto è questo: gente che ha scelto di vivere la campagna, di custodire un pezzetto di territorio al fine non di accumulare ricchezza, bensì, diciamo, di viversela bene, assicurandosi ovviamente i bisogni essenziali per sé, per i propri figli, figlie, però cercando al massimo di portare avanti, riprodurre un'esperienza che è comunque di resistenza, se paragonata al come si fanno tante cose, per esempio come si produce il cibo che tendenzialmente mangiamo tutti i giorni almeno un paio di volte sulle nostre tavole o reperiamo in giro. Quindi solamente questi due presupposti fanno sì che l'incontro, l'incontrarsi sia di per sé ne scaturisca un'energia frizzantissima che, complice il clima, dico vacanziero, però rilassato, perché nessuno deve badare ai propri armenti in quel momento. No, assolutamente no. Esattamente. E allora possiamo rallegrarci del dire, ok, noi siamo pochi, però siamo veramente buoni. Abbiamo tanti punti forti e abbiamo tanti punti deboli. Ognuno chiaramente l'approccia come vuole, chi guarda il bicchiere mezzo pieno, chi quello mezzo vuoto. Ovviamente. Noi, essendo che facciamo un programma di trasmissione radio, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché sta scritto nel contratto, vero Palmiro? Vero. Perché c'hanno un contratto vuoto che ci hanno fatto firmare. Comunque. Esattamente, esattamente. Quindi, in sintesi, abbiamo bisogno di raccontare nuovamente, attraverso magari qualunque forma, ovviamente la radio stessa, ma anche telefonate fra di noi, riceverne, mandarle, rimanere in contatto, raccontarsi. I nostri stessi mercati. I mercati. I nostri canali. Oh, sì, me sì. L'ho scordato, i mercati. Ecco. Che ti hai ricordato dei nostri mercati? Ma come? In questo momento mi ero proprio scordato dei mercati, te lo giuro. Però sostanzialmente noi, come Genuino Clandestino, usando il noi veramente allargato nel tempo e nello spazio, in 10 anni si è costruito una piattaforma politica che veramente era tanto così dall'essere rivoluzionaria, nel senso che non ha nulla di violento ed immediato, bensì propone una nuova struttura dei rapporti sociali molto più paritaria. Ecco perché siamo una residua minoranza, osteggiati, e tendenzialmente non funziona. Perché comunque il rapporto di parità fra produttore, consumatrice, consumatore, consumatore, coproduttore, chiamiamolo come si può, la trasparenza dei rapporti è una cosa veramente complessa. Sì, anche come articolare. Riprendendo anche quello che dicevi te, comunque anche ai nostri ritmi, quindi rallentando un po' i ritmi frenetici dell'attuale sistema economico e anche gli stessi concetti che ci possono portare a confrontarci con i nostri coproduttori, con i consumatori, quindi anche di trasmettere il concetto e anche la volontà di non voler accumulare ricchezze o comunque o risparmiare se voglio andare a comprare qualcosa di buono, perché magari costa di più ovviamente secondo le leggi del mercato, ma è quella di cercare di accrescere quella che è la qualità del nostro benessere, del benessere di tutti quanti. E di questo si è parlato, per esempio, quando si è proposto di allargare il manifesto stesso di Genuino Clandestino, includendo fra i punti che già sono presenti e sono già ovviamente pubblici, si è proposto di aggiungere anche un punto sull'autodeterminazione del benessere, della cura, della salute, non a caso di questi tempi se ne va parlando. Una risposta c'è, nel senso che quello che viene propinato dai media, dalle TV, dai governi è la risposta, però è una risposta che non può fondamentalmente essere soddisfacente per noi, e allora devi ripartire non solo tenendo punti come l'accesso alla terra e la possibilità di fare mercati al centro della tua proposta, ma devi ripartire di nuovo, quasi rifondare dall'inizio, perché devi metterci pure questo discorso, se vuoi. E chi lo sta facendo oltre a noi, in campagna come proposta? E la risposta è nessuno, cioè proprio un vuoto su queste tematiche, che da un lato fortunatamente non viene riempito da una forza politica istituzionale, perché evidentemente è troppo radicale, cioè, ne risulterebbe veramente un programma ostico da approcciare, però ecco, comunque sia, una proposta è stata anche questa. Come ristrutturare la piattaforma politica di Genuino Clandestino stesso, includendo temi come l'autodeterminazione, oltre che del cibo, anche della salute, della cura. Sì, anche come, perdonami, ho avuto un breve stacco. No, come dicevi te, no? Chi oltre a noi lo sta facendo? Magari non è del tutto corretto dire chi lo sta facendo, magari differenziare, cioè come lo stiamo facendo noi o come tante altre realtà che cercano di approcciarsi in questo modo alla vita, o o come la retorica della green economy propone, quindi questa rivoluzione, questa ristrutturazione del capitale, diciamo nel verde, cioè quindi con diciamo questa ristrutturazione ecologica, che però è una paraculata totale. Volevo parlare solamente bene, ecco. Lo so, è una paraculata totale, sì, è fuorviante e non vuol dire veramente nulla, ecco. No, ma non solo qua, o uno crede alla valanga di stronzate che ci vengono propinate o uno sceglie di non crederci. Non esiste che ci credo a metà, eccetera. Cioè, le risposte, l'investimento di tutto questo ammontare in milioni di euro, che tendenzialmente servirebbero per tenere in piedi il nostro futuro quindicinale e il futuro delle prossime generazioni attraverso, che cazzo ne so, la ristrutturazione totale di uno Stato che cade anche letteralmente a pezzi, dalle autostrade, eccetera. Li stiamo usando oggi per manipolare la campagna attraverso le campagne vaccinali forzose, quantomeno. Ok, perfetto. Li stiamo usando oggi per investire non si sa bene con quale prospettiva. E quindi davvero siamo, dal mio punto di vista personalissimo, è bene che iniziare a pensare all'Italia come un paese del secondo mondo, ok? In cui si diventa a nostra volta dei bacini di materia prima da fornire a un'industria globale, per esempio temi come monoculture, ok? Già siamo dentro questo sistema economico e di produzione in cui il grano arriva dall'est Europa piuttosto che dal Canada. Già siamo in questo sistema perché, per esempio, la Toscana deve fare la chicchetta da turista e produrre solamente vino e olio. Il prodotto bio. Però adesso inizia a diventare che intere sezioni di territori, che nel frattempo si stanno pure desertificando, tra l'altro, magari grazie al cambiamento climatico, allora diventano, per esempio, impianti per i mega noccioleti. Ok, e questa roba qua succede, cari ascoltatori e ascoltatrici che siete residenti nella regione Toscana, succede già nella vostra regione o al limite a 100 km massimo da dove oggi ci state ascoltando, live o podcast che sia. Quindi siamo già immersi in una merda totale, e cercare di far sì che sia di pubblico dominio anche una controinformazione è il nostro scopo. Ma come ce la possiamo fare? Siamo quattro gatti e pure sparsi nei quattro cantoni. Questa è l'equazione che, diciamo, di cui non abbiamo il risultato, però il bicchiere è mezzo pieno e si fanno mattoncino per mattoncino, trasmissioncina per trasmissioncina. E cercare un po', sì, di fare controinformazione, come dicevi te. E certo. Infatti tra le varie proposte, diciamo tra i punti anche che sono emersi, anche la ridefinizione del concetto, partendo da noi come genuino clandestino, quindi anche la ridefinizione di genuino oggi per noi, cioè come scegliamo di apparire rispetto a come viene inflazionato questo termine, cioè la genuinità, come dicevi te, siamo in Toscana e quindi la chicchetta bio per il turista, o come possono essere le fantomatiche pubblicità della green economy. E anche il termine clandestino come legame, come legale fra di noi, come legame delle nostre relazioni, quindi anche partire come riflessione tra quelle che sono le nostre differenze, differenti condizioni di lavoro e anche le nostre differenti condizioni di partenza per quanto riguarda anche il nostro mondo, parlando del nostro movimento e anche al di fuori, che è un argomento altamente divisivo. Quindi anche da qui parte la volontà di voler essere ancora più inclusivi e anche la volontà di cercare di essere aperti verso coloro che non conoscono, non ci conoscono come proposta, in questo senso. E detto questo, abbiamo... Sfoglia, sto sfogliando. No, ma io penso che si senta. No, questo era un breve quadro introduttivo per spiegare anche a chi ci ascolta da casa, via radio web o la 1359M, un po' chi siamo, cosa facciamo e come ci vogliamo proporre nei confronti di tutto ciò e di tutti coloro che non conosciamo. E quindi nulla, cosa diresti, Muro? Si butta un pezzettino? Beh sì, I do agree. So, va bene, I do agree anche me. E questa è la scelta dei 99 posse. Dimmi, dimmi, dimmi cos'è quel senso di insoddisfazione dentro di te. Pure una casa ce l'hai, uno straccio di lavoro non ti manca e non sai che cosa cazzo è che rode dentro te. Che ti svegli e stai incazzata e sai nemmeno perché. Mo sei grande e devi badare a te stesso, al tuo futuro. Spesso pensi al tuo futuro, c'è lavoro, c'è, basta andarsela a cercare. Solo che con il lavoro che c'è, che è nero, saltuario e soprattutto pesante, pagato poco e niente, il tuo futuro qual è? Il tuo lavoro perché? Perché doversi accontentare sempre di ciò che c'è? Se non è buona per me, tiena dillo per te. Io posso scegliere, posso dire di no. Chi non sceglie mai, non perde mai, ma non vince nemmeno. Io non so dove andrò, quanti sbagli avrò fatto, accetto il conflitto sereno. Non mi accontento più e voglio tutto. E come gli assalti ho bisogno di un progetto per rompere la gabbia, per uscire dal ghetto e dare un senso a tutta la rabbia che mi esplode nel petto. Lo ammetto, ho bisogno di temo, ma domani non è detto, preparati al conflitto. Non so domani dove andrò, per adesso già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Non so domani dove andrò, per adesso già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Cosa stai cercando? Dimmi cosa c'è. Dimmi che posso fare qualche cosa per te. Dimmi qual è il problema, dimmi come e perché. Vedi tutto nero, la ragione qual è? Sei senza riferimento, vero? No? Sei smarrito senza un punto fermo, mo? Credo di capire, non ti preoccupare. È inevitabile perdersi come in un bicchiere, girando a vuoto intorno al nocciolo della questione, cercando quel potere quasi paranormale di capovolgere la situazione, cambiare lo stato di cose attuale. E intanto la vita va avanti ma si fa sempre più complicata. Si fa più subdola, la minima scelta ti viene negata. Se non stai nei ranghi e non rispetti gli schemi, puoi stare sicuro che verrai tagliato fuori. E gli altri bambini ti prenderanno per il culo per il semplice fatto che non stai in fila con loro. Se non rispondi a tutti i crismi richiesti, fatti da parte e lascia passare gli altri. Sono le regole dei tempi moderni. Se non ti adegui devi cercare nuovi espedienti, nuovi orizzonti, nuovi strumenti, nuovi mezzi per affermare che ci sei, che dissenti. Non so domani dove andrò, per adesso ho già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Non so domani dove andrò, per adesso ho già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Dimmi, dimmi, dimmi perché mi guardi e non favelli. Dimmi, dimmi che c'è. Tu vuoi sapere da me com'è che si fa, perché, dov'è che si va. Frato, mo non ti posso aiutare, perché mo io c'ho nella testa la stessa domanda, che cazzo farò. Fine mo, mi è andata pure bene fin troppo. Ho fatto tanti sbagli e sono ancora in galoppo. Ma dimmi, dimmi, dimmi che fa uno che vende dischi se nessuno li compra. Quale Italia va a destra, la sinistra è già a destra, chi è rimasto a sinistra si spacca. Porca vacca, quanto è difficile essere comunisti oggi. Non è mica semplice, ma non c'è alternativa. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova, però ci prova. E dimmi, dimmi, dimmi perché dovrei restare nella strada vecchia, perché voglio saperlo da te com'è che si fa, perché dov'è che si va. Frato, mo trova tu la risposta, però mo io so che la vecchia strada del lavoro e dell'onestà per me è una strada senza via d'uscita, perciò sono qua e che sarà sarà. Non so domani dove andrò, per adesso già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Non so domani dove andrò, per adesso già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Vorrei trovare il modo migliore per dirti ciò che penso, come mi vivo ogni santo giorno. Parlare non è facile, mettersi a nudo quasi impossibile, e allora provo a scrivere. Faccio di tutto per far coincidere ciò che sono con ciò che vorrei essere. Ci provo, ma tu non prendere per oro colato tutto quel che dico. Non puoi avere idea di quante volte avrò sbagliato, quante cose avrei voluto fare e non ho fatto, quante quelle che invece di affrontare ho rifugito, quante le volte che avrei dovuto dire cose che poi per paura non ho detto, quante volte avrei fatto meglio a tacere. Prima di aprire la bocca devi pensare, e prima di arrenderti tu te le devi provare. Non darti per vinto fino a quando non leggi la parola fine. Non so domani dove andrò, per adesso ho già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Non so domani dove andrò, per adesso ho già scelto. Non so domani che farò, ma da oggi è conflitto. Per adesso ho già scelto. E nemmeno noi sappiamo dove domani andremo, che fine faremo e quali saranno le nostre scelte. E facendo una piccola parentesi su quelle che potevano essere, come diceva Mulo, no? Noi stiamo entrando nel secondo mondo, siamo nel secondo mondo, e quindi in tutte quelle aree anche che si stanno desertificando, dove ti cagano una monocoltura, un noccioleto. In campagna ci facevano ben presente i nostri compagni queste nuove coltivazioni di stampo high tech che sono previste dalla retorica della green economy, dalla ristrutturazione ecologica del capitalismo. E in campagna c'è questo nuovo trend, questa nuova moda, ovviamente, che chi è che può contraddire quelli che sono i nuovi metodi ecologici per creare energia, ma che poi allo stesso tempo creano devastazione ambientale. E in campagna ci sono queste monoculture, queste coltivazioni monoculture di pannelli solari, ovviamente, o come può essere anche l'eolico nel Mugello, anche quella una battaglia molto difficile. Chiudo qui la parentesi, Mulo, ci tenevo a dirlo. Ecco, non è affatto una parentesi, però la chiudiamo per forza, perché se tu dedichi magari quelle centinaia di ettari in ogni territorio ai pannelli solari, ecco, capito? Anziché magari metterle a cibo, e comunque sia, scegli pure sì di guadagnare, cioè meglio di investire sull'energia del futuro, però contemporaneamente ti privi pure di qualcos'altro. Della e terra. Siccome non possiamo arrivare in mezzo al mare o in cima alle in coppa alle montagne a costruire cose, quindi o ci ritiriamo noi a un certo punto e diciamo di vabbè, basta, chiudiamo qua. No, se doveva parlare se d'altro, hai ragione, tutto fuori onda, hai ragione. Detto come chiudere, come si chiude, poi mi fai. Era una cosa divertente che mi era venuta in mente da dire, ecco. Però magari qualcuno potrebbe pensare, ma perché non li mettiamo sui palazzi pannelli solari invece che, insomma, allargare il giro del controllo capitalistico sul territorio. Comunque, chiusa qui la parentesi. E come si era deciso di continuare, appunto. Stanno due o tre cose che riassumono tutto il resto. Ok, vai, lascia a te un attimo la parola, perché forse le idee più chiare. No, semplicemente abbiamo evidenziato due temi che comunque sia trasversalmente a livello di chiacchiera si intende, possono essere sicuramente spunto per un futuro all'interno del movimento genuino clandestino. Poi non ne facciamo pubblicamente parola, quindi voglio dire, è anche divertente fare un'autoanalisi del genere. Il primo è stato ed è senz'altro quella che può essere sintetizzata come una crisi di relazioni, crisi di partecipazione interna, che sì, perché comunque sia, per mille faccende pubbliche e private, per mille difficoltà chilometriche o di tempo, qualcosa è venuto meno, forse perché genuino clandestino a un certo punto non incarnava più nel quotidiano di ciascuno che ne partecipava un vero e proprio perché, un vero e proprio scopo, un movimento sì, ma perché stiamo a fare movimento, ed è venuto un po' meno. Ecco, la risposta sta paradossalmente proprio nella partecipazione. Poi crisi di partecipazione può essere pure indirizzata come critica e autocritica verso l'esterno, nel senso che il genuino clandestino si è dotato storicamente di strumenti bellissimi, anche stra-all'avanguardia, che poi sono stati copiati, sussunti, mercificati anche da veri e propri colossi economici, pensando ai supermercati e alle grandi distribuzioni. Per non fare nomi. No, si possono fare tranquillamente. Alla GOP. Sì, ma per dirne una, che comunque sia, partendo dalla partecipazione del consumatore-consumatrice alla vita di chi produce il bene essenziale, ecco che questi consumatori-consumatrici, oppure appunto verso il napoletano sono chiamati consumatori-consumatrici, ecco che diventano appunto attori-attrici attraverso le loro scelte essenzialmente economiche, ma poi proprio di relazione, diventano parte della vita stessa del produttore, della produttrice, della situazione. Il mercato diventa sì il culmine economico, però appunto il luogo, la piazza dove si stringevano le mani, si facevano sì gli affari, ma proprio si conoscevano. La garanzia partecipata come si linka al mercato? Perché solo chi ha fatto la garanzia partecipata accede ai mercati, sì. Ma se io mi limitassi, per esempio, nell'acquistare il prodotto senza entrare in quell'approfittare di quell'invito, di quella porta aperta, verso fare un passo verso la relazione diretta, ecco che è una crisi di partecipazione pure in quel senso, cioè da parte anche del coproduttore, ecco come esatto, lo intendiamo perché noi, perché ogni visita partecipata per esempio è un risveglio di consapevolezza, laddove con i tuoi occhi, con le tue mani proprio vedi non è più il territorio in senso lato, ma è proprio casa di Tizio, Caia. Cioè, vedi proprio la situazione in sé e ha voglia a dir loro davanti a un banco di mercato: questa verdura non è bella, questo barattolo è sporco, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mi sta benissimo. Però contemporaneamente bello sarebbe l'andare a vedere non solo il che cosa, ma anche il come viene portata avanti una scelta. Questa roba crea veri e propri circuiti locali che autoalimentandosi diventano veramente roba straseria. Eh sì, soprattutto anche attraverso la trasparenza. La trasparenza vera, di cui si parlava prima, che è così difficile da creare fondamentalmente. Stiamo svuotando attraverso l'uso massiccio, stiamo svuotando il significato delle parole. E come può una grande distribuzione essere trasparente? Non lo potrà mai essere, potrà solo investire milioni di euro nel dire che è trasparente. Sì, sì. Va benissimo, invece noi che non abbiamo affatto milioni di euro e non abbiamo nessuna intenzione di avercene, perché ci interessa il giusto, avere i soldi, avere tanti soldi, lo ripeto, con cattiveria, noi vogliamo solo campare dignitosamente, che ci sia concesso campare, noi abbiamo bisogno delle persone stesse che contribuiscono a farci campare. E quindi che sia un'invocazione al risveglio di tutti quanti, tutte quante, perché ci spiglia bene tutti, ma questa ci spiglia bene è veramente un eufemismo giovanile per dire che è di un'importanza tale riprendere, come si chiama, un po' di autenticità nelle nostre vite. Di genuinità. Sì, di genuinità, ma io ripeto proprio di autenticità in senso lato. Quindi crisi di partecipazione, sì, è vero, siamo sempre più frastagliati, divisi, lontani, eccetera, ma mi riferisco anche al vicino di pianerottolo in appartamento, magari. Sì, sì, sì, una condizione ovviamente, ora non parlandone ora, non cercando di derubricare quelli che sono stati anche questa crisi di partecipazione tra di noi, tra quello che può essere anche la partecipazione del coproduttore, sempre sottolineando la situazione sociopolitica ed economica che stiamo attraversando e che quindi in un modo o nell'altro ci manda in ciampanella. E comunque anche alcuni nodi dello stesso Genuino sono caduti per questo motivo. Certo. Senza avere troppi filtri, che ovviamente è una situazione da affrontare. Però non affrontando, diciamo, in sé per sé l'argomento sanità o salute, ma anche creando consapevolezza in questo senso di se mangi bene, stai bene. Certo. O quantomeno vivi bene nell'ambiente in cui vivi, fondamentalmente. E vabbè, anche altri metodi di comunicazione o che abbiamo utilizzato, che sono stati già utilizzati per farci conoscere, come il libro che comunque è stato scritto su Genuino Clandestino, ma gli stessi documentari, quindi il primo documentario che raccontava che cos'è Genuino Clandestino e perché è nato, e il secondo che si chiama Scarpe Grosse e Cervello Fino, che raccontava, che è stato più o meno fatto 5-6 anni fa, che raccontava quello che era il proseguio a grandi linee anche comunque della continuità del movimento, riprendendo quelle che sono le esperienze, che riprendeva le esperienze di vari produttori dal nord al sud fondamentalmente. E una delle proposte che sono state lanciate a questo nuovo Genuino Clandestino, una proposta concreta, è stata quella di rifare un nuovo documentario che raccontasse in sé non tanto quanto stiamo continuando, ma come stiamo affrontando tutto ciò, quindi questa situazione delicata, e come abbiamo voglia in noi e con tutti gli altri di farci conoscere, ma anche di ristrutturarci, quindi di consolidare e di cercare di creare sempre più legami anche attraverso questo. E quindi un documentario di denuncia, ma di denuncia anche come proposta, come hai già detto te, Mulo, che è come proposta costruttiva effettivamente, non violenta, ma attraverso i nostri lavori, il nostro stile di vita e il nostro rapporto, insomma, con tutto il resto, anche di farci conoscere anche quelle realtà sociali in merito. e mi sto un po' perdendo. No, comunque... no, guarda, non ti stai affatto perdendo. Cioè, credo che si stia parlando sostanzialmente della necessità di comunicare meglio, della necessità nostra sì, sì, sì, di anche avere un po' più di... Mi veniva la parola rispetto, però non è carino. Non è che di avere un po' più di attenzione verso quella che è la nostra stessa storia, la nostra stessa memoria. Nel senso che, pur avendo solamente una decina di anni come rete nazionale, sovraterritoriale, nonostante si abbia pochi anni, però la mole di lavori prodotti, di consapevolezze raggiunte e condivise è tantissima, perché ad animare questa rete decennale ci sono figure che magari hanno davvero scelto di dedicare la loro vita alla terra, a questo modo di stare sulla terra. Quindi sono storie veramente di diverse tante vite. Quindi sostanzialmente, anche per essere più efficaci con nuovi futuribili coproduttori, coattrici, come si chiamava, consumatrici, piuttosto che con altre situazioni di campagna, di giovani ragazzi, ragazze che scelgono di lasciare la città perché comunque non sta più a rispondere a tutta una serie di istanze, eccetera, per raccontarci ai nuovi che si avvicinano a noi, in sostanza sarebbe molto bello avere nuovamente una piattaforma spendibile. E come hai detto te, Bel Palmiro è saltata fuori questa esigenza, è stata condivisa e perché no è stato messo in cantiere un terzo atto, o è stato quantomeno immaginato un terzo atto che effettivamente andrà discusso, andrà capito, andrà ovviamente poi prodotto, però potrebbe essere davvero una ripartenza, l'ennesima, nell'attesa che la situazione attorno a noi nell'attesa che si torni alla normalità. Ah, è vero. Tornerà tutto a posto, uè. Sì. Sì. Andrà tutto bene. Sì, comunque è stato. Abbiamo parlato di tante cose, di come anche ristrutturare. Di come ristrutturare. Quali sono anche quei temi politici, soprattutto, che abbiamo intenzione di affrontare in merito a questa situazione, ma anche come stessi temi che portano avanti come il manifesto ma ti dici il caso di leggerlo o il manifesto, oppure potete trovarlo su genuinoclandestino.it? Beh sì, è il caso di ribadire il sito tutto attaccato genuinoclandestino.it/il manifesto, è abbastanza sì. O andando semplicemente sull'oracolo e cercando Genuino Clandestino. E sul sito trovate comunque il manifesto Comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare. Quindi sono 16 concetti in 14 in meno di 8 parole, però più o meno sì. E va bene, Mulo. Che ci si dice? Io ti ringrazio nuovamente. No, ti ringrazio io a te per avermi dato il tuo supporto, per raccontare anche il tuo aiuto, soprattutto a cercare di sintetizzare tutto ciò che è stato questo Genuino Clandestino nazionale. Guarda, perché ancora bravo, ci sono state sarei io a scrivere il libro, però purtroppo c'ho altro da fare, quindi un'altra proposta che viaggia nell'etere è quella di riscrivere un nuovo libro sul Genuino Clandestino. Mulo ci farà sapere quali saranno le sue intenzioni. Le mie intenzioni sono proprio giusto per introdurre il nuovo tema, sono a forma di India. A forma di tra l'altro, sì. Capito? E quindi nulla, visto che abbiamo che Mulo ci ha introdotto l'India, per non farvi vedere la gestualità delle nostre mani, vi buttiamo questo pezzettino di questa orchestra che spacca veramente il culo con questa bassista Rahman, e ve lo faccio ascoltare, spero che vi piaccia tantissimo, e poi si introduce questo argomento. Ciao Mulo, grazie ancora. No, grazie a te, a Wombats, a tutti quanti, e spero di rivederti presto. Uè, ma che amma fa, metto queste pezzettine e buttati. Thank you.

Bellissimo pezzo questo, bellissimo, spero vi sia veramente piaciuto. E quindi, tornando, avendo introdotto con Muro la situazione India, vi leggerò un articolo di Marinella Correggia, del manifesto su quella che è stata la vittoria dello sciopero indiano, uno dei più grandi scioperi praticamente della nostra storia contemporanea. E che parla della situazione dei contadini e quelle che sono state le loro proteste, i loro scioperi, anche a spesa della vita di molti contadini, sulle riforme, sulle leggi agrarie introdotte dal ministro Modi, che ha ritirato queste leggi che favorivano l'agroindustria e le monoculture da parte dei colossi, da parte delle multinazionali. India. Gioia e cautela tra gli attivisti, la via campesina, la lotta paga. La vittoria dei contadini. La protesta contro Modi è andata in scena anche a Glasgow, alla COP26 sul clima. Ieri, i contadini mobilitati da un anno alle porte di Nuova Delhi si passavano bocconi di cibo l'un l'altro e anche ai soldati, mentre i più giovani esultavano sui trattori celebrando la prima storica vittoria. Infatti, il primo ministro dell'India, Modi, ha annunciato la decisione del governo di abrogare le tre leggi che liberalizzavano il mercato agricolo a favore delle grandi imprese e a scapito del mondo rurale. È avvenuto nel 358esimo giorno di una lotta unita, pacifica e perseverante per il ripristino della democrazia nel paese, come ha precisato il coordinamento di 40 organizzazioni contadine, cioè il Fronte Unitario Contadino. Dal 26 novembre 2020, sotto gli occhi distratti del mondo, si è svolta una lotta oceanica e incessante che sembrava di altri tempi, con la presenza alle porte di Delhi di decine di migliaia di contadini, barbe bianche o nere, donne di ogni età, ragazzi provenienti dai villaggi di diversi stati, organizzati con tende, cucine da campo solidali e presidio medico. Hanno sopportato il freddo, poi il caldo, gli assalti cruenti della polizia. Nel mese di gennaio 2021, decine di milioni di contadini sono scesi nelle strade indiane per lo sciopero di protesta. Riconvocato a settembre, movimenti di donne, tribali e lavoratori hanno offerto appoggio. Gioia, ma anche cautela fra gli attivisti. Torneremo a casa solo quando vedremo risultati concreti, ha detto Kamdan, un piccolo agricoltore dello stato dell'Haryana, mentre per la contadina Parminder Kaur ha vinto la nostra pazienza. La lotta paga, sottolineano le organizzazioni che fanno parte del movimento internazionale La Via Campesina. Sintetizza l'associazione rurale italiana ARI. Dopo un anno di mobilitazione ininterrotta, il governo nazionalista e neoliberista ha ritirato le tre controverse leggi che colpivano il mondo contadino. Complimenti ai contadini e alle contadine indiani. Di vittoria massiccia parla La Via Campesina. Giorni fa il movimento, presente in oltre 80 paesi, aveva lanciato l'idea di internazionalizzare l'anniversario della lotta il prossimo 26 novembre. Chiediamo ai nostri aderenti di realizzare azioni di solidarietà e diffondere le immagini con l'hashtag Salute to India's Farmers, spiegando come la privatizzazione e liberalizzazione colpiscano i contadini anche negli altri paesi. Quella in India è una mobilitazione storica, la più grande dei tempi recenti, malgrado l'oppressione e i tentativi di criminalizzare il movimento. Ed almeno 650 contadini hanno perso la vita in questi mesi, nelle proteste. In ottobre, 5 attivisti sono stati uccisi da un'auto guidata dal figlio di un ministro. La protesta contro Modi è andata in scena anche a Glasgow, alla COP26 sul clima, grazie alla diaspora indiana che ha manifestato con lo slogan «La lotta dei contadini indiani è la nostra lotta». Ma che questo movimento storico e non violento, così l'ha definito Ashish Mittal, uno dei principali promotori del gruppo All Indian Kisan Mazdoor Sabha, non debba interrompersi appare chiaro nella cautela del coordinamento, che rendendo umile omaggio agli agricoltori morti avverte: aspettiamo l'annuncio del primo ministro abbia seguito in Parlamento. E ricordiamo che la nostra agitazione riguarda anche la garanzia legale di prezzi remunerativi per tutti i prodotti agricoli e per tutti gli agricoltori. Rakesh Tikait, leader del sindacato Bhartiya, scusate se lo leggo male, Kisan Union, ha avvertito che l'annuncio di Modi potrebbe essere comunque una manovra elettorale, visti i timori del suo partito per le prossime elezioni in vari stati. E questo è l'articolo del manifesto su quella che è stata la manifestazione, che è durata più di un anno praticamente, e interrotti scioperi e le proteste in India per quanto riguarda la situazione delicata e difficile che stanno vivendo tuttora, ma che hanno sempre sofferto. Parliamo anche facendo anche riferimento a quelle che sono le mani della Monsanto nel governo indiano, che attraverso le monoculture di cotone comunque impongono anche le royalty del seme stesso a discapito dell'economia dei contadini, quindi facendoli anche indebitare, e anche di quelli che sono stati e che sono tuttora i numerosissimi suicidi dei contadini a causa della situazione economica che viene della situazione economica che viene a loro svantaggio. Comunque questo è stato un interessantissimo articolo. Poi in futuro vedremo anche, purtroppo cari ascoltatori, sono da solo, mi viene anche difficile argomentare quella che è la situazione economica, politica e sociale soprattutto di un paese così in difficoltà e così la situazione così complicata, ma vedremo anche nelle prossime puntate se riusciremo a contattare uno. Mi viene in mente un'amica che ha scritto proprio una tesi su questa situazione, soprattutto sui suicidi dei contadini indiani per colpa delle royalty imposte e dei debiti che ne sono conseguiti da parte della Monsanto. E cercando di salutarvi, cercherò di mettere da sola la console la sigla della rassegna 20 e dirvi un po' di appuntamenti di questa settimana e gli appuntamenti ricorrenti. Allora, ricordiamo comunque tutti i nostri mercati. Il martedì in Viale dei Bambini all'Isolotto, tutti i martedì dalle 3 alle 7 o alle 8 finché la gente ha voglia di starci. Il giovedì con Val di Seve in Transizione, tutti i pomeriggi in una piazza, non mi ricordo il nome, scusate compagni di Val di Seve in Transizione, e tutti i venerdì in Piazza Tasso da tutto il pomeriggio fino a notte inoltrata, no scherzo, fino a buio. E in Piazza Poggi sabato mattina dalle 8 all'1. Sulla punta.org abbiamo vari eventi, tra il quale il 25 novembre abbiamo appunto il Perché sì con Dario Nardella, sindaco di Firenze, la manifestazione contro, per dire no al nuovo aeroporto. Poi sempre al Next Emerson abbiamo vari concerti questo venerdì e questo sabato. Anche al cantiere sociale Camilos en Fuegos, questo sabato alle 6:30. E poi questa domenica al Next Emerson dalle 4 in poi ci sono un sacco di concerti interessanti che vi consiglio. Abbiamo i Mar Nero, i Gazed, i Minus Hero e soprattutto i Causa. Ecco, i Causa mi piacciono moltissimo, saluto tutti i componenti e il batterista che conosco personalmente. E niente, siamo giunti al termine di questa puntata 116 e vi saluto con un altro pezzettino di Andrea Tartaglia che si chiama Nebbia. Nebbia troppo densa non te fa male, tutto male che intorno sbanca, linda nebbia se vera o falsa, stiamo chiusi in una cappa. Nebbia troppo densa non te fa male, tutto male che intorno sbanca, linda nebbia se vera o falsa, linda nebbia se vera, linda nebbia se vera. quasi ma appiccico con me stesso, fra chi ha guerra già tengo in capo. Tutte single, casa schierano, video vero, conflitto armato, che aiuto ammazzata, scecata, non stato mandala, mi trova salita, paura, vestuta, soldata, si morte che è stata, bella e buona ma n'ha assediata, malotte con posto, repiglia, sostanze e calore, con voglia e surore, o libero moro, che forza non coro, si perde la speranza, ma grappa all'energia interiore. Allo capisce che sì, che sto un gazzito e chiaggia per ni e parla con me stesso. Allo capisce che sì, che sto un gazzito e chiaggia per ni e parla con me stesso. La nebbia tiene in capo, ma lo tiene in capo, la peppa nestora mentre mi faccio stare viziata, abbasta una bandata. Combattete, distruggete, ritrovate battuto, battuto, maizzate, rivoltate, nessuno cade astuto, subisce la scanna, poi scassala, non stare dell'ine, tu attaccala, perché noi non siamo macchina, ma siamo una fonte miracola, subisce la scanna, poi scassala, non stare dell'ine, tu attaccala, perché noi non siamo macchina, ma siamo una fonte miracola. Ogni paura è nostra nebbia, non da favore né fuori né dentro di te. Ogni paura è nostra nebbia, non da favore né fuori né dentro di te. Ma da fantasy tu ritrovavi per farmi soffrire a sta malatica. Te leva la luce e taglia la nebbia, a verite o curtiella, è primavera in capa, con mano sciore, casa schiudo, solo sta capata, si rinata. Siamo chiusi in una cappa, nebbia troppo densa non da favore, tutto male che intorno sbanga, rinda nebbia se vero o falsa. Siamo chiusi in una cappa, nebbia troppo densa non da favore, tutto male che intorno sbanga, rinda nebbia se vero o falsa. Rinda nebbia se vero, rinda nebbia se vero. Hey! Ciao.